universo spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Nia Daschio su Play e Stefano W. Pasquini. So cocky, you can make like your chicks bounce like volley, cause I know from a night at pillow talk time, you call my phone popping and sounding all sorry, you were so silly acting all gobby, cause I just ain't another girl like me, plus you ain't worthy of a girl like me, I can do way better than you with your glory. Now I'm pulling the chains, so it's flush, out my veins, out the drain, flush, like you, no more sink, you left skid marks, but the scars don't last, flush, time to be me again, flush, each bubble, meet my friends, flush, sorry love, what was that what I heard was, come prova microfono possiamo dire tutti Leonardo Santoli. Leonardo Santoli. Non ti vedo, dico, ma va bene lo stesso, no? Pronto. Abbiamo fatto un fuori onda, uno, come si chiamavano quelli? Non lo so. E dunque, allora, o ti vedo così, o disegni. A questo punto puntiamola sul visivo. Come vuoi tu. Vediamoci. Comunque, stasera così. Arte contemporanea. Direi indubbiamente ospiti di arte contemporanea. Questo è Coxo Spaziale, naturalmente io sono Mia Daschio su Piei. E io sono Pergola Chiara. E Pasquini l'abbiamo lasciato a casa perché... Ma sì, che va bene così. Ha da fare di meglio. Appunto. No, naturalmente Mia la salutiamo e la baciamo, che ci starà ascoltando di sicuro. Ciao Mia! E siamo alla, non mi ricordo, a 492esima puntata di Coxo Spaziale. La musica di sottofondo oggi è un po' nervosa, mentre invece i nostri ospiti sono super calmissimi. Infatti li vedo molto rilassati, super rilassati. Molto... Cioè, abbiamo così. Tre ospiti d'eccezione. Allora adesso li presento. Presentali io tu, che mi grande. Sono scritta tutte delle cose. Bravissima. Però se non vi piacciono è colpa di Pasquale. Comincio da lui così okay. Individuiamo già il capro espiatorio. Allora, Pasquale Fameli, ricercatore eccentrico. Beh, dopo spieghiamo perché. Marco Ghigi, pardon, collezionista critico. L'ho trovato sul sito di Arte Fiera, Critical Collecting. C'era scritto. Ah, ok. Mi piaceva, però. Critical Collecting ci sta, però in italiano suona male. Beh, no, invece sarebbe una figura importante da introdurre. Vabbè, dopo ne parliamo. Massimo Pulini è disegnatore artistico. Critical Painter. È nonché docente di Accademia. No, nonché pittore della Madonna, cioè uno dei pittori più bravi che io conosca dopo, cioè, dopo Leonardo, però dopo, non, dopo diciamo, Leonardo. Non diciamo no, quale. Stavo per dire dopo Giancarlo Onorese, poi vabbè, lo sai che io sono un fan di Giancarlo Onorese. Conosci Giancarlo Onorese e Massimo Pulini? No. Neanche di fama, vedi? Com'è che è allora, uno dei... quanti conoscono Giancarlo Onorese in quest'aula? Ok, beh, dai, 3 su 4 va bene. Anzi, 4 su 5 se contiamo anche noi. Comunque salutiamo anche Giancarlo Onorese, che lui invece ci ascolta in differita al martedì, perché voi dovete sapere che al martedì su coxospaziale.blogspot.com potete riascoltare la puntata di oggi, che è abbastanza... Che è abbastanza una puntatissima. Questa musica qua non è tipo una roba sportiva? Chi è sportivo? Ci stanno mandando. Questo è quando arrivano le news di solito. Ah, ecco, è vero. Invece l'ho messa come musica di sottofondo ed è nel CD di Bebop che. È così, confondiamo un po' acque, diciamo. No, sappiate che queste non sono le news, ma è Coxo Spaziale. E appunto abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Con chi partiamo, Chiara? Sei tu la mia co-conduttrice per cui. Non lo so, facciamo volontari? No, io partirei. Facciamo in ordine cronologico. Chi è che comincia prima? Pasquale, sei sempre tu. No, in realtà in ordine cronologico la Biennale di Rimini è già cominciata da un mese. E allora Massimo Pulini. Okay. Massimo Pulini che poi non so se l'hai detto, oltre a essere un pittore della Madonna, un disegnatore artistico, anche docente di Accademia delle Belle Arti, nonché con le mani in pasta cofondatore della Biennale nell'organizzazione della Biennale del disegno di Rimini. Esatto. E io pensavo che fossi di Rimini, invece non sei di Rimini. No. Sono acquisito, sono di Cesena, però sono diventato anche riminese. Certo, raccontaci di questa, è la quarta edizione della Biennale quarta del edizione disegno della di Rimini. Biennale Disegno Rimini, una rassegna piuttosto vasta, in questa edizione ci sono 12 mostre. 12 mostre che vanno dal Grand Tour alla fantascienza, come dice, recita il sottotitolo, e è un'edizione dedicata al viaggio, appunto, ed è un'edizione che parte davvero da disegni di metà Settecento fino alla contemporaneità più spinta. Abbiamo sempre anche l'antico, quindi, rappresentato all'interno della Biennale? Sempre, a volte, anzi, in edizioni precedenti le mostre partivano anche dall'inizio Cinquecento, insomma, c'erano anche incursioni abbastanza concrete e consistenti nell'antico, con prestiti dagli Uffizi, quest'anno prestiti dall'Accademia Reale di San Fernando di Madrid, e da Amiens, dalla FRAC regionale della Picardie di Amiens. Ho capito. Un fracket prestito, hai capito. ed è già cominciata, perché ahimè... È cominciata proprio veramente un mese fa, il 4 di maggio. Il 4 di maggio, perché come ti avevo detto, Radio Città Fujiko arriva solo a Castel San Pietro, e dunque tutto quello che succede San Pietro a Castel Franco... Oggi a pranzo abbiamo messo un'antenna che permette di collegarsi. Appositamente per questa sera. Capito? Esatto. Comunque Pasquini, ti devo tirare le orecchie, perché quando ero la tua co-conduttrice avevamo una rubrica che si chiamava Fuori perché Porta, c'era il Covid, per cui non succedeva niente a Bologna, capito? Non so se ti ricordi, eravamo murati in casa. Guarda, però ero così coinvolta che l'avevo rimosso. L'avevi rimosso. Invece il nostro amato Marco Roma continua a mandarci dei vocali cantati, per cui anche oggi ascoltiamo cosa ci dice, sentiamo. Buongiorno, mi mancano i tuoi sguardi, quelle frasi belle che avevi scritto in mezzo al mare. La poesia è radiofonica, perché mi chiamo Marco Roma. Boom boom, hai visto? Un grande. Però si è intestato la radiofonia in generale. In generale. Capito. Io ho scorto un piccolo sguardo di invidia. Marco Ghigi, cioè, se vuoi, tu al lunedì dalle 20 alle 21 puoi mandare un vocale al 333 180 94 94 che noi, okay, cioè cantato o non cantato, qualunque cosa. Noi Coxo Spaziale lo farà ascoltare ai suoi radioascoltatori. Un pezzo da baritono farò. Grande, perché canti anche? Ma no. Deve essere, eh? Okay. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla Biennale del Disegno. E va bene, non so, facciamo un primo round velocissimo tra tutte le iniziative. Facciamo una cosa come nelle puntate serie. Facciamo finta di essere seri. Ricercatore eccentrico, puoi spiegare tu perché ho individuato questo termine? Certo, sì, è appunto perché riprendi giustamente il titolo del motivo per cui io sono qui oggi, cioè per introdurre la mostra Eccentriche Nature che inaugura presso Cubo Unipol nei due spazi di Porta Europa e della Torre mercoledì 5 alle 17. È appunto una mostra che raduna 10 artiste attive a Bologna che hanno lavorato sulla rielaborazione delle forme naturali, in particolare delle forme vegetali. Io ho i nomi, se li vuoi. Direi adesso, se vuoi ce li ho anch'io. Stavo Sergio Veduti, Pinuccia Bernardoni, che saluto ed abbraccio, Mirta Caroli, Valentina Daccardi, Giulia Dall'Oglio, Sabrina Mezzacqui, Sabrina Muzzi, Francesca Pasquali, Greta Schödel e Sissi. Ecco. Io abbraccio anche tutte le altre. Certo. No, io saluto e abbraccio tutte. Io ho abbracciato solo la Pinuccia, che perché me l'ha mandato, ho detto ci vediamo alla preview, ma poi mi ha detto che non viene alla preview, per cui mi tocca di tornare anche mercoledì, ma va bene. E dunque, ma in tutti e due gli spazi? Sì, in tutti e due gli spazi, perché appunto da alcuni anni Cubo Unipol si è espanso con quest'altro spazio molto bello in torre, al 25° piano, un rettangolone più che esatto. Un cubo. Io ho delle fotografie fatte nella mostra appena conclusa con lei Stefano Non, che sono andata a vedere, veramente è emozionante, la vista sulla città. Sì, sì, devo dire che in effetti fa tanto, insomma, anche quel panorama è estremamente suggestivo, quindi è anche una sfida, se vogliamo, perché in qualche modo fare curare una mostra all'interno di uno spazio così ti invita a cercare di gareggiare in qualche modo col paesaggio, con questa ampiezza di veduta che c'è poi su un lato magari di Bologna meno considerato, però sicuramente suggestivo. Benissimo, io adoro entrambi quei luoghi, sono vicini a due poli delle mie varie attività, tra l'altro il Cubo Porta Europa, cioè sopra è bellissimo, c'è una specie di giardino pensile, uno da sotto non direbbe mai, no? Che invece è una bella passeggiata. E comunque 333 180 94 94, se volete fare domande ai nostri ospiti, siamo qui via WhatsApp oppure SMS. Dopodiché finisco il giro con Marco Ghigi, collezionista critico nonché direttore artistico o inventore fondatore di Capannone APS. APS sta per Associazione di promozione sociale regolarmente registrata in quel di San Lazzaro, dove Idice per l'esattezza. Idice, quindi ancora peggio, difficile da trovare. Io una volta mi ricordo che ho fatto scrivere Capannone su Google Maps e ti porta allora il navigatore ti porta irrimediabilmente nel cancello successivo, quindi già non si trova, però c'è un cartello con scritto arte fiera 1981 per cui a posto. È l'unica chance per trovarlo. Esatto. E comunque il mio spazio, contrariamente al cubo, non ha la difficoltà di dover competere con qualcosa di bello, perché è sostanzialmente abbandonato in questo posto improbabile di fianco all'ex Malaguti, che è questa struttura di 17.000 metri quadrati abbandonata da decenni, e niente, quindi E quindi sono tutti tuoi questi 10.000 metri quadrati? No, il capannone è più contenuto. Il capannone è molto contenuto, è l'ex stabilimento Malaguti. Senti, che è a fianco. Io volevo capire esattamente come si pronuncia. Allora, la pronuncia è Capanaon. No, infatti con la A un po' aperta. Ovviamente. Perché se fossi riminese invece si pronuncierebbe Capanaon, giusto? Sì. Io l'ho pronunciato proprio in modo barbaro. Capanaon. Vabbè, ma tu sei... Io l'ho pronunciato come tu si legge. Tu sei una forestiera, dai. Sì, in effetti. Però sono avendo la K davanti, come mi disse Claudio Verne nel 2019 quando inaugurai lo spazio, mi chiamò il giorno dopo perché non riusciva a capire questa terminologia, dove lui pensava che fosse un nome tedesco sostanzialmente. Esatto. O norvegese. Tedesco. Quando gli ho spiegato l'origine si è messo a ridere. Giustamente. E dunque da quanto tempo è aperto il Capanaon? Dal 29 settembre 2019 per esattezza, quindi fra poco compirà 5 anni. Hai capito. Che sono volati via sostanzialmente. Ah no, infatti. E come festeggerai il quinto anno del Capanaon? Ma con l'ennesima mostra, direi. Mi sembra giusto. Ma il 29 settembre era un omaggio a Lucio Battisti oppure? No, casuale. È venuta così. Era semplicemente un sabato di fine estate. Ma io invece perché ho You Make Me Feel di Aretha Franklin da suonare? Perché dopo. Per via delle eccentriche nature, perché adesso quando entreremo un attimo più nel merito. Ma che poi siamo già entrati perché no, lei ha detto tutti si è capito benissimo che sono tutte donne queste artiste che Pasquale Famelli ha invitato. E dunque posso suonare Cavallo Pazzo di Crista, che è il nuovo singolo uscito il 23 maggio per Fai il Piccio Records, suona Cavallo distribuito Pazzo da Audio Globe, e ringraziamo il Piccio che una volta è venuto di persona a Coxo Spaziale a portarmi Serena Abrami, e adesso una volta venuto qua mi manda degli MP3 sempre. E ascoltiamo sto Cavallo Pazzo perché è una romagnola anche lei delle tue parti. E vai. Fatti miei. rubami il cuore se ci riesci, Chiara. Ma sì, non ci provo neanche, guarda. Senti, però ci siamo dimenticati una cosa importante in questo primo giro un po' superficialotto, diciamo così. Un po' superficialotto, sì, ma sai com'è? Quando perché fai la abbiamo detto della biennale del disegno di Rimini, abbiamo detto di Eccentriche Nature, ma non abbiamo detto che Marco Ghigi è qui perché inaugurerà, non è qua nelle menzioni, però subito dopo inaugura il ciclone di Open Tour. Esatto, il ciclone di Open Tour. E inaugura il 17 lunedì sera, infatti naturalmente subito dopo Coxo Spaziale, dopo che racconteremo appunto che c'è questa inaugurazione, io come al solito prendo la macchina e vengo a bere una birretta al Capannone. Cosa succede questa volta per Open Tour? Allora succede che questa mattina le ragazze vincitrici, la ragazza dell'Accademia e della classe della professoressa Marinella Paderni, mm-hmm. che hanno vinto, diciamo, perché è proprio una sorta di concorso a tutti gli effetti, nel senso che per il secondo anno consecutivo mi sono inventato questo concorso, perché è un concorso vero e proprio, per aspiranti curatrici, perché sono tutte ragazze. Un concorso di colpe, praticamente. Concorso di colpe, esatto. ho praticamente dato la possibilità a queste ragazze di inventarsi una mostra, quindi di stabilire un testo critico, un titolo e anche tutta la comunicazione. Con 50 opere della mia collezione che sono una sorta di ingredienti dai quali potevano attingere per le altre 50 non gliele hai lasciate guardare, le altre 500 non gliele ho lasciate guardare, grazie. Solo 50. E quindi è una mostra, quelle che tiene Basilea nell'hangar di Basilea. Nell'hangar bicocca nell'hangar bicocca di Basilea, quelle non gliele ha lasciate toccare. Sto pensando a magari qualcuno che è in tangenziale e dice di che cosa stanno parlando questi, parlando di hangar bicocca di Basilea. No, stiamo parlando di che corso che sta del secondo anno del biennio di didattica esatto, per cui tutte devono fare. Erano la classe stata divisa in questo caso in sei gruppi da cinque studentesse, quindi erano sei gruppi di lavoro, ognuna delle quali si è data uno pseudonimo e hanno di fatto realizzato sei mostre diverse, attingendo da queste 50 opere della mia collezione, più avevano l'obbligo di inserire all'interno della mostra almeno un giovane artista dell'Accademia. Ecco, infatti era questo che volevo chiedere. Almeno uno. Quindi hanno dovuto studiarsi 50 artisti, bene o male, che se non li conoscevano, i miei. Poi hanno dovuto fare uno studio visita anche presso tutti i loro colleghi aspiranti artisti all'interno. Tutti ancora studenti. Studenti, tutti rigorosamente studenti. E la cosa curiosa è che quest'anno si sono fatte prendere un po' la mano le ragazze, perché hanno addirittura inserito, oltre a sei degli artisti della mia collezione, hanno inserito Furia, il cavallo dell'Oeste. Come sei sciocco, scusa. No, hanno inserito ben tre ragazze dell'Accademia. Okay. Ma perché sono sempre tutte donne, ragazze? Perché infatti forse si iscrivono solo donne a studiare I maschi non fanno didattica, perché sai, tu gli tocca di studiare e non ne ha voglia. Poi dopo magari diventano artisti. La mostra, a mio avviso, è molto bella, molto riuscita. Diciamo che abbiamo avuto un po' di problemi nel determinare il gruppo vincitore, perché io e la Marinella eravamo arrivati a restringere a due e onestamente non riuscivamo a dare un 51 a uno e un 49 a quell'altro. E non si poteva fare il classico exequo? No, perché la mostra deve realizzare uno e il catalogo che verrà realizzato è uno solo. Allora abbiamo lasciato a Lorenzo Balbi questa incombenza. Non dovevi dirlo, perché adesso quelli che non hanno vinto andranno a casa di Lorenzo Balbi oppure davanti alla porta del Mambo, quindi davanti anche alla porta di casa. No, lui ha preso questa decisione che poi alla fine abbiamo condiviso pure noi. Però mai come quest'anno c'è stata una lotta testa a testa fra questi due gruppi, non che gli altri quattro non fossero apprezzabili, erano tutti bei progetti, però è chiaro che come in tutte le gare uno vince e gli altri non vincono. Qualcuno deve pur vincere. Però sarebbe bella una gara invece dove vincono tutti. Ma tutti, essendo tutti bravi, In realtà esistono le gare in cui vincono tutti, e sono le mostre di Mail Art. chiunque spedisce viene, sì, viene esposto, per cui pensavo che fossero le gare di tuttologia. Ah, le gare di tuttologia, no, quelle mi mancano. Non sono le gare di tuttologia. E quindi noi non menzioneremo lunedì prossimo, perché lunedì prossimo l'evento c'è. L'evento, giusto? C'è, quindi, dunque lo menzioniamo lunedì prossimo. Però non me l'hai messo in elenco. Lunedì prossimo è già il 17? Sì. No, ma infatti è per quello che non lo menzioniamo. Perché qua. Allora no, mi fai lo scherzo della settimana scorsa, che dopo io mi sono agitata perché pensavo che il giorno dopo, infatti, ci fosse la mostra di Renato Baril. Abbiamo menzionato Renato Baril, ma perché conoscendo Malossini mi è arrivata la mattina e dico è domani di sicuro, invece era domani di domani, cioè domani di questa settimana. E vabbè, succede. Comunque non credo che nessuno a parte me sia andato all'inaugurazione di una mostra che non c'era. Io stavo per andarci, comunque. Anch'io. Per fortuna mi hai scritto per caso e quindi l'ho saputo. Molto bene. Molto bene, allora invece passiamo a queste eccentriche nature. Eccentriche nature. Anche qui tutte donne, però questa volta non è voluto, l'hai proprio scelto. Sì, l'idea un po' nata appunto riflettendo con Angela Memola, che è la responsabile del patrimonio artistico del gruppo Unipol, è stato quello di voler valorizzare la creatività al femminile a Bologna. E naturalmente era impossibile fare una mostra che includesse tutte le artiste che sono attive a Bologna e che giustamente meritano di stare in un contesto di questo tipo, però appunto abbiamo cercato di trovare un taglio che permettesse intanto di fare una tappa, una riflessione attorno a un tema più specifico, più circoscritto, e quindi ho pensato appunto che il rapporto con la natura, ma in particolare con la vegetazione, potesse essere un filo conduttore, un denominatore comune piuttosto stimolante, perché di fatto la vegetazione, lo sappiamo, la botanica eccetera, sono fortemente presenti nell'immaginario artistico da tempi lontanissimi, e le forme naturali sono sempre state al centro delle elaborazioni grafiche, plastiche eccetera degli artisti. Allora l'idea... Sta succedendo qualcosa. Stava succedendo, sì, no. Non so se... era il loop del... Pensavo che fosse un tuo dell'aereo, invece no. Eravamo proprio noi. Ogni tanto gli aerei fanno mandare il mio microfono in Larsen, per cui... Poi non ho capito bene perché, comunque. Scusate, sai com'è. Pasquale si stava appunto dicendo la natura presente dai tempi della gloriosa illustrazione scientifica, che forse è il fondamento, addirittura parte tutto da lì. Esatto, quasi. Infatti, e poi d'altra parte qui a Bologna noi abbiamo l'esempio di Aldrovandi, infatti. Quindi l'idea è stata appunto quella di esplorare un po' i modi di interpretare le forme vegetali. Naturalmente questo ha evitato di precludere i media, cioè naturalmente all'interno della mostra ci sono tutti i media, dalla pittura alla scultura, all'installazione, oggetto, video anche, fotografia, quindi come dire, tutte le varie forme, le possibili forme di attraverso cui è possibile interpretare appunto le forme naturali. È una mostra che include artiste che appartengono a generazioni diverse. Questo non per mostrare necessariamente un'evoluzione così causale, no, di questi rapporti, ma per dimostrare che invece questo rapporto, con questo confronto con la vegetazione, invece continua, e che interessa artisti appunto di vari periodi, che hanno lavorato in contesti, in climi culturali molto diversi. Ti devo interrompere perché sono le 20:30. Cox spaziale. E come dice questo jingle, siamo tornati a Coxo Spaziale. E rieccoci qua. Stavamo parlando di eccentriche nature. Una mostra che inaugura mercoledì. Qua c'è scritto alle 18, no? Alle 17. E alle 17. Alle 17. Dalle 17 alle 20. Alle 20. È l'apertura. Ok. Quindi, Ma l'inaugurazione è in entrambi i posti, o come funziona? L'inaugurazione è in entrambi i posti. Sceglie se stare di qua o di là. Diciamo che la nostra idea è questa: noi saremo in Porto Europa dalle 5 fino alle 6 e mezza più o meno, e poi ci sposteremo in torre. Però naturalmente chi preferisce, per ragioni organizzative, personali, proprio andate visitare un po' prima la torre, poi Porto Europa, eccetera, naturalmente è libero di farlo. Però tu farai lo spiegone della mostra in quest'ordine. In realtà farò lo spiegone della mostra domani mattina nella conferenza stampa, mentre l'inaugurazione è libera, insomma, quindi ci sarà possibilità naturalmente di confrontarsi, di parlare anche. Poi uno guarda coi propri occhi, esatto, e parla con la propria bocca. Eccetera. Poi naturalmente io sono lì molto contento eventualmente di confrontarmi, di parlare, di dialogare, però niente, non ci sarà uno spiegone. Tu Marco, quando inauguri lo fai lo spiegone della mostra, no? Ufficiale. Ma non lo devono fare le. Le autorità, nel caso del Capannaone, le studentesse faranno lo spiegare della mostra rigorosamente, senza piangere. Massimo Pulini, cavoli. Massimo Pulini, quando inauguri la biennale del disegno di Rimini, fai lo spiegone della mostra. Te tocca di fare lo spiegone della mostra. Sì. E come fai? In tutte le sedi fai uno spiegone per ogni sede? Ah no, ecco, le 12 mostre sono state inaugurate interamente al Fulgor. Cercato un luogo simbolo. Che è tipo due volte e mezzo il Grand Hotel, per fare, no? Sì, poi in realtà il Fulgor adesso ha sia la sala cinematografica che anche il museo, parte del museo Fellini sopra, nei piani successivi, dove sono allestite due mostre importanti, una con qualcosa come 170 manifesti e progetti di manifesti del cinema cubano. Wow. Quindi prima ho detto due mostre internazionali, ma ce n'è una terza che è questa, che viene da Cuba e attraverso un collezionista veneto che ha questo materiale straordinario. E anche disegni originali della Rosa di Baghdad, che è il primo lungometraggio italiano degli anni 40, e ci sono i rodovetri, gli sfondi di questi disegni animati che volevano in qualche modo gareggiare con Walt Disney e che costituiscono una delle chicche di questa biennale. Ma bellissimo, è imperdibile questa cosa. Infatti. Veramente delle chicche preziose. Sì, ce ne sono poi diverse. La biennale adesso sta su Carli, tutta l'estate, giusto? Fino alla fine di luglio, al 28 di luglio. Ah, okay. Ma a te com'è venuta quest'idea della biennale del disegno? Allora, come accennavo nei fuori onda, è un gruppo di lavoro che si è mantenuto per tutte e quattro le edizioni piuttosto compatto, con un paio di defezioni, ma in ogni caso è davvero un lavoro collettivo, perché si presenta come una cattedrale in un certo senso espositiva. Siamo arrivati in edizioni precedenti addirittura a 30 mostre e più il circuito open, che tra l'altro inaugurerà il 5 dopodomani, dove una serie di privati, da librerie, studi di architettura, di grafica e quant'altro, allestiscono delle proprie mostre, piccole mostre di disegni in dedica alla biennale. Quindi diventa davvero un festival del disegno, non solo a Rimini ma anche in una rete allargata: Longiano, Cotignola, Lugo, Castel San Pietro. È un open Romagna, però a Castel San Pietro non arriva, giusto? Sì. Arriva anche a Bologna, c'è una mostra dell'Ariete che viene segnalata anche Hai capito, che è quella che aprirà adesso, okay, all'Open Tour. Ah, grande, hai capito. Hai capito. A questo punto potevate inglobare tutto l'open tour e fare facciamo un super open tour. Sono mostre di disegni e quindi c'è uno specifico. Certo. Beh, cioè, comunque è importante questa cosa del disegno per le accademie, perché a me capita, perché in effetti è un po' snobbato il disegno. Cioè, a me capita di sentire delle giovani studentesse che magari arrivano oddio, insomma, c'è di tutto, voglio tutti dire, sanno disegnare, dipende dall'accezione di idea, no, più che altro che arrivano con questa impostazione per cui il disegno non è una è una cosa solo per iniziare, per progettare, progettare, volta a qualcos'altro. Ma poi vanno dalla Caimi e la Caimi li convince a diventare tutti artisti disegnanti. Se posso aggiungere una cosa, prima sentivo Pasquale e il bellissimo tema della mostra curata da lui, e mi veniva da aggiungere, purtroppo non c'è più, ma nel Novecento a Bologna abbiamo avuto la disegnatrice di erbari più importante a livello mondiale, che era Marilena Pistoia, una straordinaria, è stata anche un'insegnante all'Accademia, ma di fatto era di una modestia e di una riservatezza che, andata in pensione, nessuno dei colleghi sapeva quello che aveva fatto, era conosciuta in tutto il mondo, centinaia di pubblicazioni da National Geographic in giù, eppure lei di una riservatezza, ma una disegnatrice di fiori e di piante straordinaria, davvero. Hai capito. Interessantissimo il tema dell'illustrazione scientifica, da assolutamente sostenere. Ma come al solito ti interrompo per l'angolo della menzione. Ovvero domani alle 11.30 inaugura la mostra personale Viaggio intorno alla mia stanza di Renato Barilli. Mostra personale a cura di Sandro Malessini, non sappiamo nient'altro a parte il fatto che conosciamo Renato Barilli, ma in veste di critico e curatore, e invece domani lo potremo vedere. Ma qua in radio viene sempre in veste di pittore. È vero, perché abbiamo già prima attorno a tutta la schiera dei suoi amici, adesso attorno alla sua stanza, che sicuramente nelle sue sapienti mani di pittore sarà diventata grandissima. Esatto, tutto questo all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50 a Bologna, domattina alle 11.30, da non perdere. Mercoledì 5 giugno, l'abbiamo già detto ma lo ridico perché sono in scaletta, dalle 17, segnate bene, alle 20, Cubo, il museo di impresa del gruppo Unipol, presenta le due sedi in Porta Europa e Torre Unipol e Centriche Nature, una mostra a cura di Pasquale Fameli con la collaborazione di Valentina Rossi, che salutiamo, che riunisce 10 artiste bolognesi analizzando quell'aspetto della loro produzione che si rivolge alla natura e nello specifico alla vegetazione. Artiste Sergio Avveduti, Penuccia Bernardoni, Mirta Caro, Valentina Daccardi, Giulia Dall'Oglio, Sabrina Mezzacqui, Sabrina Muzzi, Francesca Pasquali, Greta Schödel e Sissi al Cubo Unipol, www.cubounipol.it. Giovedì invece alle ore 18 abbiamo Arte, Architettura, Città, Flavio Favelli e Mario Cucinella in dialogo con Lorenzo Balbi. Lo stato precario della Torre Garisenda, simbolo di Bologna, e il dibattito sul suo avvenire danno l'occasione per discutere dell'arte e dell'architettura intorno alla città, dai progetti realizzati fino a quelli utopici. Un artista, Flavio Favelli, e un architetto, Mario Cucinella, dialogano con Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, su Bologna e le sue prospettive. Questo nella sala conferenze del Mambo in via Domizzoli 14 a Bologna, giovedì alle 18. Chissà se, ti interrompo per aprire questa mini parentesi, chissà se c'è nel loro dibattito anche quel simpatico sondaggio che ha circolato sui muri della città: vuoi che la torre cada, sì, no, metti la croce qua sotto. Sai che non lo conoscevo questo sondaggio. Te lo manderò. Mm-hmm. Bene, venerdì 7 giugno alle ore 17, 17.45, 18.30 nell'ambito di Bologna Portici Festival Heritage Meets Creativity. 4-9 giugno 2024, è complicata questa cosa che mi hai scritta, non ci ho capito niente io, figuriamoci gli ascoltatori. Me la decifri No, nel senso che il Portici Festival va dal 4 al 9 giugno e si chiama Heritage Meets Creativity, e dunque nell'ambito di questo Bologna Portici Festival abbiamo la proiezione del film La città di cartone, che è il film di Francesco Maurizio Finotto, scusate, attraverso la voce narrante dello scrittore Armando Cavazzoni. Il film racconta una città parallela e poco visibile, popolata da persone che non hanno una casa, la città di cartone. La città di cartone è stato realizzato all'interno del progetto Riparazioni, rielaborare ad arte dell'Accademia di Bologna nell'ambito del PON Metro, programma operativo nazionale di città metropolitana coordinato dal Comune di Bologna e finanziato dall'Unione Europea. La proiezione vedrà la presenza del regista Maurizio Finotto e anche di Erminio Cavazzoni, che ha dato la voce che ha dato la voce al documentario. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti venerdì 7 giugno alle ore 17, alle ore 17.45 e alle ore 18.30, scusate. Poi sempre venerdì. Leggi tu, perché è tutto pieno di sigle e di nomi difficilissimi, hai fatto apposta a lasciarmi tutte le menzioni più complicate. Certo, resistere all'oblio, archivi LGBTQIA+, tra passione e attivismo. Gli archivi LGBTQIA+ di Bologna, in occasione di Archivissima, il Festival degli Archivi, raccontano e declinano il tema della passione attraverso una selezione di documenti e oggetti dalle loro raccolte. L'incontro organizzato dal Centro di Documentazione Flavia Madaschi, Cassero LGBTQIA+ Center, sarà l'occasione per presentare in anteprima l'edizione italiana del progetto espositivo Resisting Oblivion, curato da Chelsea Sending Schuder, ricercatrice docente di Tokyo e dedicato agli archivi di comunità che lottano per resistere all'oblio di storie troppo spesse cancellate, che verrà realizzata a Bologna negli spazi del museo nel giugno 2025. Intervengono Chelsea Zendi Schöder, docente della Oyama Gakuin University di Tokyo, Stefania Voli dell'archivio storico del MIT, Movimenti Identità Trans Onlus, Sara De Giovanni del Centro di Documentazione Flavia Madaschi, Elisa Coco dell'archivio Luchi Massa e Simone Cangelosi, Outtakes Archivio Automisivio LGBTQI. Ok, tutto questo è alla sala conferenze del Mambo in via Domizoni 14 a Bologna. Però aspetta a dire sabato, perché venerdì c'è anche il finissage di MAG, della mostra di Luca Rossi e di Giulio Alvigini a MAG, però c'è anche un G in fondo. Magazzino Art Gallery? No, secondo me no. Comunque va bene, è in via Testoni, non mi ricordo il numero. L'abbiamo detta un po' così. Comunque l'abbiamo detta loro un po' così. Loro pazienteranno, però esatto. Poi dopo, quando il 24 verrà... verrà Alessandra Carini. Alessandra Carini ci tirerà gli orecchioni. Le orecchie. Questo lo puoi dire tu invece. Allora, sabato 8 giugno, anche perché mi hai spiegato prima tutta questa cosa delle date, ore 16:19, nell'ambito sempre di Bologna Portici Festival Heritage Meets Creativity, dal 4 al 9 giugno 2024, come ci ha spiegato prima Stefano, alle pendici di Montovolo, scolpire la pietra arenaria a cura di associazione Fulvio Ciancabilla APS, un'occasione unica per scolpire le proprie iniziali su pietra arenaria, guidati da abilissimi scalpellini, custodi della tradizione nata nella Valle del Reno. Nel maestoso cortile del Terribilia anche le studentesse e gli studenti saranno al lavoro nella composizione delle proprie tavole. Su prenotazione ha un link che troverete lungo domani su corsospaziale.blogspot.com, e tutto questo è naturalmente all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54, Corte del Terribilia. Mentre invece nello stesso tempo abbiamo sempre davanti all'Accademia, abbiamo Donare Arte, ovvero l'Accademia di Belle Arti di Bologna, in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Bologna, proporrà al pubblico un pomeriggio di feste di convivialità, regalando libri prodotti dalle due istituzioni finora non distribuiti. Pubblicazioni e cataloghi d'arte saranno donati gratuitamente alle persone presenti e ogni libro sarà personalizzato con illustrazioni e disegni realizzati sul momento da studentesse e studenti, e tutto questo in piazzetta Roberto Raviola, appunto, in Arte Magnus, praticamente in fondo a via Belle Arti. Finite le menzioni, abbiamo quasi finita la puntata, mi mancava ancora di chiedere a chi? A Marco Ghigi, perché certo. Ho chiesto a tutti come ti è venuto in mente di aprire il Capanao. Il Capanao. L'ho detto meglio? Sì. Come ti è venuto in mente di aprire il Capanao? un sogno notturno forse, chissà. Sì. Un incubo. No, ma era un incubo, si è diventato un mondo. A parte il fatto che hai litri e litri di birrette che ti vengono svuotate proprio ad ogni inaugurazione. Birretta righe le farà l'altro, esatto. Direttamente da Monaco di Baviera. Hai capito. Non una birra tanto. No, hai fatto mostre importantissime. L'ultima, sì. Per esempio, era di Simon Callery, che fra l'altro ha fatto un lavoro molto interessante. E poi anche prima, adesso non me le ricordo, però. Sì, guarda, la soddisfazione più grande è stata che nelle ultime 5 mostre, in tutti e 5 i casi, gli artisti hanno prodotto i lavori apposta per lo spazio. Mentre quando ho iniziato questa attività, ho più che altro raccolto opere mie di amici per fare mostre, a partire da Farid Rahimi, che questo è un mio amico pittore milanese, a seguire con Andrea Nazzarriti, poi Gerald Miller, David Adamo, che è stato presentato durante l'ultima edizione di Arte Fiera, e adesso Simon Callery, che è appena terminata. Tutti e 5 questi bravissimi artisti hanno proprio prodotto i lavori apposta per lo spazio ed eseguito la mostra. E questo per me è un motivo di grande, certo, orgoglio, e anche le prossime 2, che sono già pianificate, sarà una di una giovanissima artista italiana, ve lo posso già anticipare, a ottobre, Erika Pellicci, una trentenne italiana, a mio avviso, estremamente talentuosa, una fotografa, videomaker e anche performer, farà la mostra presumibilmente verso metà fine ottobre. E poi invece un artista 83enne tedesco sta lavorando già per la mostra di Arte Fiera 2025. Quindi diciamo che la cosa che piace a me fare è non darmi delle regole, nel senso che può lavorare nel mio spazio una giovane artista trentenne italiana piuttosto che un grande maestro pittore di Düsseldorf di 83 anni, piuttosto che una grande artista come Andrea Nazzarriti, o anche Michele Lombardelli, un altro mio Michele Lombardelli. Sì, un altro mio carissimo amico che ha fatto la persona, lui l'ha fatto un po' prima, però anche lui mostra sé specifiche all'interno del catalogo. Michele Lombardelli è anche molto attivo nel campo dell'editoria. Dell'editoria, infatti tutti i cataloghi miei li produce lui. Infatti. Ti faccio una domanda scomoda, amichevolmente. Ma i tuoi amici e colleghi galleristi cosa pensano di uno spazio come il Capannon? Non sono, perché comunque non sei una galleria, cioè tu non, le tue opere non sono invidiosi. No, invidiosi lo sono, ma questo è un altro discorso, cioè tutti sono sempre nel mondo dell'arte, tutti sono sempre invidiosi di tutti, ma questo è un altro paio di maniche. No, mi dicevo, siccome tu non sei una galleria commerciale, per cui non hai le opere in vendita, cosa dicono di te? Anzi, almeno gli amici galleristi bolognesi vengono sempre alle mie inaugurazioni e si bevono tutte le tue birrette. Si bevono tutte le birre fino all'ultima, anche 3 o 4, e sono tutti contenti. Esatto. Ok. Bene. No, diciamo che il presupposto mio sono 2 idee che mi sono fissato fin da quando ho aperto, di fare mostre a mio avviso di qualità, quindi puntando sulla qualità, e soprattutto non convenzionali. Cioè non mi interessa fare una mostra, fra virgolette, scontata. Cerco di proporre artisti o un po' dimenticati, come ahimè i mid-career italiani. Sto aspettando la chiamata. Ah, che bel tema. Da mid-career italiano anch'io. Ma anche stranieri, perché lo stesso Simon Callery, che non si può dire dimenticato, però lui è partì con Satsuki negli anni 90 insieme a Rachel Whitehead, piuttosto che Damien East e compagnia bella, e gli altri hanno fatto un percorso di mercato enorme. Lui invece si è innamorato di una torinese. È andato a vivere a Torino e si è messo nei guai. Queste storie d'amore sono un disastro. Ho capito. Bene, quindi belle iniziative. Direi che abbiamo terna. Detto quasi tutto. Abbiamo detto quasi tutto. Io devo dire che sono molto contento di averti fatto incontrare, perché tutti e 3 non si conoscevano, o poco almeno. E dunque, insomma, Coxo Spaziale. E dunque adesso la prossima, come generatore di network continua a funzionare. Capannon, mi devo allenare, perché io non sono neanche di Bologna, quindi da modenese, svantaggiatissimo. Lei è emiliana, capito? capito, per cui lo dico con orgoglio. Con orgoglio, con orgoglio. Ah, sì, no, è vero, in effetti sì, no, sono io che mi sento poco emiliano, ma è un problema mio, appunto. E invece Pasquale non è emiliano per niente, vero? Esatto, no. Sono calabrese. Calabrese. Emiliano adottivo. Calabrese, calabrese emiliano o calabrese romagnolo? Guarda, è un bel tema, perché sai che io ho un'attività anche a Ravenna che mi porta spesso in Romagna, oltre ad avere anche un corso a Rimini, e quindi in realtà sono diviso tra l'Emilia e la Romagna. E quindi cosa fai a Ravenna di bello? A Ravenna sono Non che Radio Città Fuggico arrivi fino a Ravenna, però fino a Castel San Pietro sì. A Ravenna sono direttore artistico della Fondazione Sabe per l'Arte, che è una fondazione nata nel 2021 e dedicata prevalentemente alla scultura contemporanea, scultura in senso naturalmente ampio, flessibile. E, è una fondazione che realizza 3 mostre l'anno di scultura, ma ripeto, in senso veramente piuttosto ampio, anche con dei dialoghi, dei confronti non così stringenti. Oltre alle mostre, insomma, la fondazione organizza anche degli eventi collaterali, incontri, dibattiti, conferenze. Tutto viene naturalmente documentato e poi reso pubblico sul sito, quindi se siete interessati sabeperlarte.org avrete la possibilità di vedere quelle che sono state tutte le attività svolte all'interno della fondazione. E invece, prima di lasciarvi, volevo chiedere, visto che abbiamo qui Massimo Pulini, che so che ha organizzato anche lui una o più mostre per Open Tour, mi chiedevo appunto, raccontaci che cosa farai tu per Open Tour, visto che sta per iniziare e il fremito in Accademia si sente già, certo, piuttosto bene. Beh, devo dire che da qualche tempo il mio corso di pittura al biennio di specializzazione è frequentato da molti studenti dell'Erasmus rappresentano, che è un grande piacere, detto tra noi. Certamente, perché davvero sono il porto dell'Accademia, cioè arrivano ventate di novità e di curiosità, perché arrivano per lavorare e anche per assorbire informazioni e contaminazioni, e nel giro di 6 mesi manifestano davvero un entusiasmo che quest'anno vorrei documentarlo con un'esposizione dedicata prevalentemente a loro, senza dimenticarmi i miei studenti. Sì, diciamo, che poi dopo però, perché ci viene subito quella frecciatina, ah, ma come, i soliti stranieri, i no, soliti esterofili. No, ma in realtà gli stranieri ormai sono di casa da sempre, perché tra cinesi, persiani, tedeschi che, certo, frequentano e sono iscritti regolarmente, quindi devo dire l'Accademia di Bologna è diventata internazionale ormai a tutti i livelli. E poi invece assieme a Leonardo Santoli condivideremo una mostra che salutiamo e baciamo sulla bocca online. Beh, io no. E condivideremo una mostra alla Galleria 56 di Via Mascarella. Ma come la condividete? Cioè avete tirato una riga, io sto a destra e tu stai a sinistra? No, faremo oppure un misto. Litigate un po' quando c'è da allestire. 5 studenti miei. Vabbè, che tanto tu suoi lo sai, basta dargli da mangiare e Santoli è a posto, capito? 5-5, ok. 5-5, alziamo il fazzoletto, giocheremo a fazzoletto. A ruba bandiera, e via che si va. E saranno in ordine sparso, non saranno. Perché poi io credo davvero che l'Accademia debba avere le porte aperte anche tra i corsi. Assolutamente. Non esistono, insomma, le specificità. Tutti noi docenti facciamo un servizio civile, insomma, siamo. Questa dovrebbe essere la filosofia, sì. Assistenza psicologica e quant'altro. Comunque sì, no, con me sfondi una porta aperta, perché i miei 3 corsi sono addirittura in 3 dipartimenti diversi, per cui quindi, figuriamoci. I miei sono addirittura in un'altra città. In un'altra città, per cui più trasversale di così. E poi ho anche qualche altro studente in mostre organizzate da altri docenti che sono venuti a selezionare un po'. Insomma, ma ci sta una domandina, ci sta una domandina. Cosa della selezione, Come perché gli studenti come se la vivono? Allora, io devo dire, ho sempre, allora, io da quando si fa Open Tour, da quando sono tornato dopo il periodo riminese, io ho sempre diviso tutti i muri della mia aula con una griglia di un metro quadro, e avevo intitolato sempre le mostre metro quadro, ed era un modo perché tutti esponessero, e così fanno, insomma, non ci sono studenti che vengono esclusi. Ci sono argomenti e tematiche specifiche di certe mostre che inducono a selezionare alcuni studenti anziché altri in rapporto a quello che fanno, e che di volta in volta cambia come tema e come argomento, insomma, ecco, non c'è, credo, cioè che i miei studenti possono testimoniare tutti felici, questo tipo di atteggiamento, che credo che sia, poi si manca sempre in qualcosa, non si può essere inevitabilmente, insomma, qualcuno magari, io dopo anni, e sono più di 40 anni che insegno, ogni tanto incontro dei miei ex studenti che mi dicono: ma quella volta mi hai detto quel commento a quel lavoro. Ovviamente io non mi ricordo più, però ha lasciato un segno. Però magari a volte segni positivi, a volte segni anche un po' che bruciavano, però l'insegnamento è anche questo. Ovviamente. Abbiamo finito il tempo, ho messo la canzone che mi avevi chiesto, perché mi ero dimenticato di suonarla prima. Sì, è dedicata alle artiste naturali. E io vi ringrazio tantissimo, Massimo Pulini, Pasquale Fameli, Marco Ghigi, e naturalmente ringrazio anche te, Chiara Pergola, che eri qui con me da co-conduttrice. E quindi io ringrazio Mia Daschio Supiei, che ci ascolta da casa. A te non ti ringrazia nessuno. Ma va benissimo così. Ti diamo per scontato. Esatto, è giusto essere così. Questa era Coxo Spaziale. Naturalmente ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.